gentlemen, tonight, for you, we don't have a show. We have the show. E non c'è una scena che sia più dolce al mondo. Guardo lassù e no, non c'è una nuvola che mi abbia il sole gelato. Sei tu che colori in me. Gli anni più belli che ho, teatro e piano, la malinconia di un mimo muto. Guardo i suoi occhi, non c'è spettacolo che sia più vivo alla luce. Rubo il sorriso perché non c'è dipinto che dia il senso di perfezione. Because you are my show.